Vivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Oggi con noi la dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Chi ci conosce ritorna, e quindi bentornata dottoressa a Obiettivo Salute e Risveglio, un appuntamento del mattino in cui noi cerchiamo col vostro aiuto di raccogliere idee, suggerimenti, informazioni per proteggere il nostro capitale salute. E oggi con lei ci occupiamo dei nostri capelli. Allora, per chi li ha appena lavati, voglio fare un piccolo e veloce test. Partiamo dallo shampoo. Puro o diluito? Andiamo al balsamo. Balsamo sì o balsamo no? Asciugatura naturale o con il phon? Dottoressa Fulgione, sono delle domande banali, ma la detersione dei capelli, abbiamo imparato che quanto sia importante per la cura dei capelli, ma sappiamo anche che può anche essere causa di danni. Allora oggi lei ci deve aiutare a evitare gli errori e soprattutto le chiederemo anche di darci dei consigli su come proteggere i nostri capelli in estate, perché poi puntuale come ogni anno a settembre, ottobre, quando vediamo i capelli sul nostro lavandino, sul piatto della doccia, che cadono, voi dermatologi ci dite: ecco però perché in estate. Allora noi giochiamo d'anticipo. È d'accordo, certo, dottoressa? Sono perfettamente d'accordo. E già è sottolineato infatti proprio che la detersione è un momento importantissimo. Noi delle volte pensiamo al corpo, al viso, però i capelli li trattiamo un po', fra virgolette, peggio in questo senso. Utilizziamo magari lo stesso doccia schiuma, viso, corpo, tutto insieme. Non dovrebbe essere fatto così, anche perché affinché i nostri capelli mantengano proprio la lucidità, la morbidezza, la resistenza, dobbiamo cercare di ridurre tutti i traumi fisici, chimici, meccanici, che cominciano proprio dal momento della detersione, altrimenti poi si distrutturano e si hanno le doppie punte, oppure quei capelli che provocano proprio difficoltà di crescita, che noi chiamiamo con un termine un po' particolare, che si chiama tricoressi nodosa. Allora partiamo dal detergente, mi dicevi, quindi la scelta. Sì, andiamo sotto la doccia. Perfetto, andiamo sotto la doccia, quindi dal detergente dovrebbe cadere su uno shampoo che mantenga un po', abbia un'acidità cosiddetta ottimale, cioè rispetti quello che è il pH, quindi 5, 5, 5, e dovremmo andare a scegliere quegli shampoo che hanno dei tensiativi cosiddetti dolci, quindi ampoteri, usarli in bassa concentrazione, quindi diluirli potrebbe essere sicuramente importante, soprattutto se facciamo più volte lo shampoo durante la settimana. Importantissimo è anche il discorso del balsamo, delle cere, delle maschere, perché i tensiativi possono provocare un rigonfiamento del capello, quindi lo rendono disidratato, lo rendono più fragile. Invece, andando ad utilizzare il balsamo e le cere, possiamo andare a prevenire i danni, cioè a ripristinare il normale proprio equilibrio dei capelli. E quindi su questo è il primo momento che dobbiamo assolutamente sottolineare. Poi ridurre anche i traumi meccanici, cioè se abbiamo un capello, ecco, ad esempio, dottoressa Fulgione. Ecco, allora cominciamo già dalla spazzolatura, cioè già da come li pettiniamo e quando li pettiniamo, perché se abbiamo un capello liscio è importante pettinarlo, districarlo quando è ancora asciutto, quindi prima di entrare nella doccia, e pettinarlo bagnato solo dopo aver applicato il balsamo. Sembra strano, però già pettinare, quindi spazzolare, può essere un trauma per il capello se non viene fatto nel momento adatto. Invece il capello riccio, quello un po' più africano, va districato sempre da bagnato, quindi non ci proviamo proprio a pettinarli i capelli ricci quando sono asciutti, e chiaramente anche in questo caso dopo aver applicato un balsamo, un olio sotto la doccia e prima di asciugarli. Un altro trauma meccanico a cui non pensiamo quasi mai è l'asciugatura, o meglio pensiamo al phon ma non pensiamo al momento in cui andiamo a strofinare i capelli con la nostra asciugamano, perché non dobbiamo strofinarli energicamente, dovremmo anche questi, come un po' il nostro viso, no? Quando parliamo di pelle, tamponarli e andare a preferire diffusori, quindi l'asciugatura con il phon, aria non troppo calda. A volte i miei pazienti mi chiedono spesso, ma lavare i capelli tutti i giorni fa male? No, se li laviamo in maniera corretta e se li asciughiamo utilizzando un phon molto vicino a cuoio capelluto. Il problema è il trauma del callo del phon vicino a cuoio capelluto. Estate, tempo di mare per chi può, di gite fuori porta, di piscine, ma Dottoressa Fulgione, il sole accarezza i nostri capelli anche quando andiamo in ufficio, quindi non è necessario pensare di andare al mare, e noi dobbiamo proteggere i nostri capelli così come proteggiamo i nostri occhi e la nostra pelle, corretto? È correttissimo, infatti, perché molto spesso pensiamo al mare, ma anche una passeggiata, anche andando in ufficio, così come la salsedine e il cloro non fanno bene alla nostra pioma. Quindi, così come ci preoccupiamo, e questo ormai è molto diffuso, di utilizzare le fotoprotezioni per il corpo, per il viso, dobbiamo utilizzarle anche per il nostro cuoio capelluto. Ed esistono oggi dei filtri studiati proprio per i capelli, di solito sono formulazioni gel, oli secchi, spray, che consentono di andare a proteggere non solo la parte interna del capello, che in realtà è la corteccia, ma anche la cuticola, poi quella che ci fa sembrare i capelli più belli e più morbidi, quindi prevengono l'azione di disidratazione. Questo è molto importante, Nicoletta, proprio perché a settembre poi possiamo risentire di quelli che sono i danni che abbiamo fatto nel periodo estivo, appunto, perché la tipica caduta autennale, il cosiddetto telogen effluvium reattivo, è proprio peggiorata dalla fotoesposizione. Quindi delle attenzioni particolari in questa fase possono sicuramente aiutarci poi a perdere meno capelli a settembre. Ecco, questo è basterebbe portare un cappello, che è così elegante. Molto bello e molto molto utile il cappello, anzi diciamo che forse quella è proprio la prevenzione primaria, come ad esempio se andiamo, passiamo molto tempo in piscina, anche il cloro può essere un problema per i nostri capelli, quindi utilizzare una cuffia è sicuramente un'attenzione particolarmente utile in questo caso. E ancora, sempre per quanto riguarda appunto la prevenzione, è importante, molto spesso si fanno tanti trattamenti anche dei capelli dal parrucchiere, vanno benissimo ad esempio trattamenti ristrutturanti con la cheratina, però anche qui attenzione, perché questo termine cheratina, che è nato un po' di anni fa, viene confuso, quindi esistono dei trattamenti che sono molto utili per i capelli perché vanno a rimpolparli, a ristrutturarli, dei trattamenti alla cheratina invece che contengono la formaldeide, sono quelli liscianti, che è il trattamento alla cheratina non deve lisciare, quelli distrutturano il capello, così come le decolorazioni, dovrebbero essere evitati prima del periodo estivo, perché chiaramente rendono il capello più fragile e quindi possono più facilmente danneggiare poi durante l'estate il cuoio capelluto ed il capello stesso. Quindi piccoli, diciamo, flash, ma molto utili. Assolutamente. Dottoressa Fulgioni, ma ci sono dei capelli che al sole ci guadagnano e altri invece che vengono danneggiati? Assolutamente sì, allora diciamo che più che i capelli è proprio il cuoio capelluto in alcuni casi che ci guadagna, tipo tutti quanti coloro che soffrono di dermatite seborroica, iperseborrea, psoriasi, perché abbiamo questa azione un po' decappante, immunomodulatrice del sole, che facilita la diciamo risoluzione o meglio il miglioramento di queste dermatiti durante il periodo estivo, quindi sicuramente chi soffre di questo tipo di patologia realmente in questo periodo un grosso beneficio. E invece particolare attenzione devono fare tutti coloro che soffrono di alopecia androgenetica, la cosiddetta calvizia comune, oppure che hai capelli radi, capelli molto sottili, perché i raggi UV possono incidere sul follicolo pilifero, quindi lo rendono ancora più sottile, peggiorano la miniaturizzazione del capello e lo rendono molto fragile, quindi in questo caso il cappello di cui parlavi ancora più importante, e in chi soffre proprio di calvizie, essendo il cuoio capelluto esposto al sole e quindi più facilmente può andare incontro a scottature, per scongiurare poi il rischio di cheratosi attiniche, epiteliomi, che sono molto frequenti in questo tipo di pazienti, dobbiamo sicuramente usare il filtro non solo quando andiamo a mare, ma anche se dobbiamo arrivare in ufficio e facciamo una bella passeggiata a piedi. Dottoressa Fulgione, quindi in chiusura, proprio per ripassare queste piccole, queste semplici regole, facciamo una sorta di decalogo o i 5 punti da rispettare per avere chiome belle, sane, lucenti? Assolutamente, allora quello di evitare, abbiamo detto, i cosiddetti traumi fisici, chimici e meccanici. Cosa significa? Sotto la nostra doccia andremo a scegliere degli shampoo un po' più delicati con i cosiddetti tensioattivi dolci e li diluiremo. Andremo a tamponare i nostri capelli invece di frizionarli uscendo dalla doccia, utilizzeremo un diffusore, un phon o ancor meglio approfittiamo delle belle giornate per asciugare i nostri capelli al sole. Però nello stesso tempo cercheremo, per ridurre i danni dei raggi UV, dei raggi della salsedine e del cloro, di andarli a risciacquare sempre se siamo in spiaggia dopo aver fatto un bagno, quindi rimuovere la salsedine e il cloro, andare a utilizzare un filtro solare che ci protegge sia la corteccia del nostro capello che la parte più esterna, quindi la cuticola. Queste sono, diciamo, un po' le regole base, e il cappello è perfetto in ogni momento, in ogni occasione, è anche molto elegante, come dicevi. È vero, è vero. Grazie dottoressa Fulgione per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie anche a te e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. In regia c'è Peter Bescapè, in assistenza Lorenzo Nespoli, in redazione come sempre Laura Vanossi. E anche oggi vi invito a seguirci dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.